Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Le infiliamo tutte le mattine prima di uscire, le togliamo alla sera e se durante il giorno siamo tentati di sfilarcele, lo facciamo di nascosto, sotto la scrivania per pochi minuti, sperando che nessuno se ne accorga, perché mostrare i piedi da noi, a differenza che in altre culture, è ancora considerato qualcosa di intimo. In linea con noi abbiamo il piacere di avere il professore Emanuele Iannini, docente di sessuologia medica all'Università degli Studi dell'Aquila. Buongiorno professore, bentornato. Ben risentiti. Professore, i piedi creano un sottile imbarazzo. C'è, anche se tra i cosiddetti feticci, cioè tra i cosiddetti interessi sessuali da parte un po' di tutti, sono assolutamente al primo posto. Lo diceva Sigmund Freud senza una dimostrazione scientifica. L'abbiamo dimostrato in un lavoro che abbiamo fatto con il Karolinska Institute di Stoccolma e ci siamo accorti che effettivamente di tutti i cosiddetti feticci erotici il piede è sicuramente quello più gettonato, seguito dalle scarpe. Ma perché proprio i piedi, professore? Ancora una volta Freud aveva un'ipotesi così molto freudiana, come si dice, nel senso che è un simbolo fallico in qualche modo, ma non, probabilmente non è questo il vero significato dell'interesse nei confronti dei piedi. I piedi sono nascosti e quindi questo già genera, come dire, interesse, siamo interessati a tutto ciò che è nascosto da tutti i punti di vista, ma anche sono un indicatore sul quale si può barare molto poco dello stato di giovinezza, ovviamente stiamo parlando dei piedi femminili soprattutto, dello stato di giovinezza della donna, nel senso che non si possono facilmente truccare come altre parti del corpo, quindi ci danno un'indicazione molto onesta, per così dire, della reale gioventù biologica della persona. Professore, però, come lei anticipava, anche le scarpe hanno il loro fascino. Sì, caspita, io ho un'amica che ha una stanza dove ci sono, una grande stanza dove ci sono tantissime scarpe, ma fino a qua siamo nella quasi normalità. La cosa, come dire, un pochino patologica è che ciascuna scarpa è fotografata, e cioè la Polaroid, la fotografia fuori dalla scatola, in maniera che questa signora possa ritrovare la sua scarpa istantaneamente. E questo la dice lunga sul fatto che anche le donne possono essere feticiste, in questo caso delle scarpe. Con tacco, senza tacco, le ballerine. Su Facebook i nostri ascoltatori si sono veramente scatenati nel segnalare le loro preferenze. Sì, diciamo che chiaramente sono lì dei segnali differenti. È ovvio che lo tacco a spillo è una rappresentazione di aggressività, ha una capacità di sottolineare le curve femminili che è assolutamente particolare, mentre invece le ballerine hanno tutt'altro significato, non meno erotico, ma diverso. Sulla nostra pagina di Facebook abbiamo messo le scarpe di alcuni conduttori. Guardate le scarpe, indovinate il proprietario. E perché, professore, lei mi confermerà che le scarpe dicono a volte molto più di un volto. Ah, non c'è un bel dubbio, c'è una bellissima scena di Danny Moretti nel film Bianca dove il protagonista ha una finestra da dove vede solamente la gente che passa e fa questo lungo commento sulle scarpe che vede senza vedere i volti e cerca di immaginarsi come sono le persone che le portano. Che le dicevo, ogni scarpa una camminata, ogni camminata una diversa concezione del mondo. Comunque, volete stare comodi a casa vostra? Sì, fate quello che volete, ma non le pantofole. Le donne al limite possono mettersi le scarpe cinesi, anche se mi hanno lasciato sempre un po' freddo. Quei colori così decisi, rosso rosso, azzurro azzurro, nero nero, e poi quella specie di scollatura attraverso cui si intravedono alcune dita. Ma che mi vuoi provocare facendomi vedere un po' di dita? E allora le caviglie. E quando ho visto le sue scarpe io ho capito tutto di lei. È un uomo che ha sofferto, che ha solo un paio di scarpe alla volta, che piano piano si consumano, diventano lisse, perdono il colore. Eccolo qua, il monologo di Moretti, Bianca, sulle scarpe, professore, proprio quello che ha citato lei, e noi ce l'avevamo in scaletta. Eh sì, ma d'altra parte io ero una comparsa di quel film, quindi me lo ricordo bene. Grazie professore, buona grazie giornata. Le portiamo per circa 8-10 ore al giorno, ma saranno quelle giuste? Come le scegliete? Voi privilegiate la comodità o siete più attenti alla moda? Chiamatemi 800 24 00 24, potete come sempre seguirci su Facebook e su Twitter, raccontatemelo e soprattutto ditemi se quando le togliete provate una sensazione di sollievo oppure quasi non vi accorgete di averle addosso. Qui in studio con me ho il piacere di avere il dottor Riccardo Benvenuti, ortopedico all'Istituto Ortopedico Gaetano Pini di Milano. Buongiorno dottore, bentornato. Buongiorno a lei. È vero che già esaminando le nostre scarpe il medico può raccontarci molto della salute dei nostri piedi e individuare ad esempio un cattivo appoggio o una postura sbagliata? Sì, non è sempre così facile, però chiaramente guardando la suola delle scarpe si può vedere un uso sbagliato o eccessivo di una parte della suola che può far pensare a un appoggio sbagliato o a una postura scorretta. Allora, vogliamo guardare le suole delle nostre scarpe? Se le consumiamo sul lato sinistro? Beh, non è così semplice. Certo, se le consumiamo più sul bordo esterno del piede, può darsi che lì il piede appoggi in maniera più importante e quindi potrebbe dare dei problemi. Allo stesso modo se consumiamo più il tacco sulla parte interna. Però, ripeto, non è che ha un consumo sul bordo esterno ci non sia una diagnosi, di patologico. Non è niente di patologico. Allora, vogliamo allora toglierci le scarpe e osservare i nostri piedi? Magri, corti, lunghi, grassocci, affusolati o tozzi, belli o brutti, che piacciono o no? I nostri piedi, dottore, sono un capolavoro di ingegneria. Sono un capolavoro di ingegneria meccanica. Il piede ha tantissime articolazioni, ha 26 ossa, ha tantissime articolazioni, tutte collegate tra di loro. E quindi il carico viene trasferito dall'alto verso il basso, quindi i nostri 50-60 kg per le donne, 80-90 per quello che sono gli uomini, vengono poi ammortizzati a terra e conseguentemente permettono il cammino, la deambulazione, la corsa, tutto quanto. Quindi un capolavoro, ma a proposito di capolavoro, che cosa lega il grande pittore rinascimentale Lorenzo Lotto a un bel paio di piedi nudi? 800 24 00 24, questo è il nostro quizzettone di oggi che lega i piedi all'arte. Voi iniziate a chiamarci, una guida al benessere al primo ascoltatore che ci fornirà la risposta esatta. Potete, quando fate le scarpe da donna, fare anche i 34 e i 35, per piacere! Vi prego, in ginocchio, guardatemi, fate il 34-35 per noi che siamo diversamente abili di piede. Che noi dobbiamo andare in giro con le scarpe dei clown, due numeri più lunghe. Oppure ti dicono, perché scusi, 35 non c'è, mette il 36, si mette una soletta. Allora, la soletta, diciamola una volta per tutte, non è che ti allunga il piede, te lo alza. Quindi la scarpa ti esce lo stesso, invece di uscirti da dietro ti esce dall'alto. Eccola Luciana Littizzetto, piedi troppo piccoli. Dottore, spesso noi facciamo fatica a trovare il numero, a capire esattamente il numero che va bene per il nostro piede. Le scegliamo un po' così, a sì, caso. Soprattutto le donne, non a caso ma secondo la moda. No, sicuramente ci sono delle tipologie di piede diverse, sì, che non dipendono tanto dalla... dall'etnia eccetera, ma dipendono soprattutto, sembra, da un ricordo delle vele antiche, per cui si parla di piede egizio, di piede greco e di piede romano, distinguendo il piede egizio come quel piede che ha il primo dito, l'alluce, più lungo delle altre dita, e il piede romano, quello quadrato. E chiaramente in un piede dove abbiamo un secondo dito molto più lungo della, che però è molto bello. Ma questo è... Lei cosa dice? No, io preferisco le dita abbastanza con il primo più lungo del secondo, più lungo del terzo, più lungo del quarto, più lungo del quinto. Però nel caso di una anormale lunghezza del secondo dito, chiaramente utilizzare e scegliere una scarpa con un numero corretto può diventare difficile. Meglio sceglierle, meglio misurare le scarpe al mattino quando le acquistiamo o alla sera? A regola al mattino, perché di solito al mattino il piede è più sgonfio e quindi la misura abbiamo è più corretta. Abbiamo più probabilità di trovare il numero giusto. Una scarpa con un numero corretto. Lei faceva riferimento alle tre tipologie, greco, romano ed egizio. Certo. Ciascuna tipologia ha i suoi punti deboli e i suoi punti forti? No, direi che la tipologia forse che si presta meno alla calzatura è quella col secondo dito molto lungo, perché solitamente la scarpa si sceglie sulla lunghezza dell'alluce. Sì. Se uno ha un secondo dito molto più lungo potrebbe essere messo in difficoltà nella scelta della scarpa. Per il resto direi di no. I piedi dei nostri bambini possono essere greci, romani o egizi, ma sono piatti. Questo è assolutamente fisiologico, ma quei piccoli ferretti da stiro generano sempre un po' di apprensione nei genitori. Ma quando cambia il piede del bambino, dottore? Io direi che fino a una certa età è fisiologico. Quale? Per il bambino, fino ai 3-4 anni. Io fino ai 3-4 anni personalmente i bambini non li tratto mai. Dopo i 4 anni, se il piede continua, come ha detto giustamente lei, a essere piatto, si può pensare di mettere un piccolo plantarino, un'ortesina che vada a correggere, a compensare questo tipo di difetto. Però fino ai 4 anni diciamo che il piattismo dei bambini, quel piede ciccioso come l'ha chiamato lei, è chiaramente fisiologico. I piedi crescono col tempo e poi si trasformano e spesso cambiano forma. A farne le spese sono di solito le dita, l'alluce in particolare che diventa valgo, ma si notano anche modificazioni delle altre dita, dottore? Assolutamente sì, il piede come dicevo prima è come una molla, come una cosa biomeccanica, quindi negli anni tende a perdere elasticità. Negli anni magari ci si può anche allungare il piede di una mezza misura, di una misura, e conseguentemente si possono avere delle deformazioni, alluce valgo, dita martello o qualunque altro tipo di patologia dell'avampiede che possono portare a dei problemi. Diciamo che sono patologie soprattutto femminili queste, legate probabilmente anche all'uso di particolari calzature. Allora, prevenire è meglio che curare. In linea con noi abbiamo il professor Luca Vagnina, podologo, presidente della Società Italiana di Podologia. Professore, buongiorno. Buongiorno a lei Nicoletta e buongiorno al collega e agli ascoltatori. Ce le abbiamo tutte noi donne che usiamo le calzature sbagliate, quindi paghiamo questo nostro così vezzo di utilizzare magari scarpe con il tacco, con dolori e trasformazioni delle dita? No, non ce l'avete tutte voi, e comunque a noi uomini dal punto di vista maschile piacete con le scarpe carine, col tacco alto. Premettiamo questo, così che distinguiamo la sfera professionale dalla sfera sociale e psicologica. Le donne effettivamente, come diceva il collega prima, vi ascoltavo mentre parlavate, con la loro calzatura vezzeggiativa e carina tendono ovviamente ad avere problemi maggiori, perché il piede non può esplicare la sua funzione biomeccanica e informativa posturale di cui sarebbe il promotore, quindi una piccola parte se lo autocreano le donne. In parte ci sono processi ereditari, ma soprattutto non esiste, secondo me, in Italia una vera prevenzione con uno screening per capire se il tuo piede funziona male, anche se non hai dolore, anche se non hai sintomi. Fattelo controllare una volta da uno specialista, in modo che prima di arrivare a eventuali discorsi chirurgici hai tentato di risolvere il problema funzionale. Ecco, questo sarebbe il mio consiglio di oggi. Assolutamente, quindi fate controllate i vostri piedi. Ma io vorrei che professora Vagnina e dottor Benvenuti ci imprestaste oggi il vostro occhio clinico per individuare eventualmente, quindi prevenire dei problemi. Professora Vagnina, tante volte noi davanti allo specchio guardiamo il nostro viso, guardiamo se ci mettiamo di profilo per vedere se abbiamo un po' di pancetta. Noi donne siamo ossessionate dalla cellulite, ma scendiamo con lo sguardo e guardiamo i nostri piedi. Professore. Allora, ci sono delle donne per cui il piede è veramente un elemento fondamentale della loro bellezza, come anche la mano in genere, e delle donne che invece il piede lo nascondono, se ne vergognano oppure non lo guardano. Invece è buona cura, come diceva lei, cominciare a guardarlo, perché a volte uno, il miglior medico è il medico di se stesso, perché vedendo che ci sono magari delle anomalie visive davanti a uno specchio o viste dall'alto, potrebbe indurre la persona a portarle ad andare ad esaminare se c'è un problema o se invece non esiste questo problema. Quindi l'autovisione dei propri piedi e prendersene un po' cura o attenzione almeno è veramente fondamentale. Basta poco, perché se uno vede che un piede casca in dentro più dell'altro, o tutti e due cascano molto in dentro ad esempio, o sono molto cavi, molto arcuati, o le dita cominciano ad assumere atteggiamenti strani, Quindi sono segnali che qualcosa non funziona, che forse è bene andare a vedere prima che peggiorino o devolvino in patologie più gravi. Un altro segnale sono i calli e i duroni. Brava. E questi sono fondamentali. Sono preparata. Sono proprio una mappa quelli. Già un bravo clinico, guardando dove si manifestano queste callosità e paragonandoli eventualmente anche alla calzatura, ma anche solo, soprattutto quelli plantari e digitali, uno si rende conto del modo di camminare o delle disfunzionalità di questo piede dal punto di vista biomeccanico. Tenga conto che se noi camminassimo scalzi sopra le dita non avremmo mai calli, perché il callo viene solo quando c'è una pressione anormale. Quindi i calli sopra sono molto legati alla calzatura, sopra le dita, mentre i calli sotto la pianta del piede o sotto le dita, quelli non sono da calzatura, sono da camminata e quindi necessitano di una visita e di eventuali correzioni con delle terapie speciali che aiutino a modificare il modo di stare in piedi, il modo di camminare. Professore, lei diceva guardiamo i nostri piedi, ma io aggiungerei anche tocchiamo i nostri piedi, massaggiamoli, facciamoli lavorare, facciamoli fare altro rispetto a quello che normalmente fanno e quindi occupiamoci di loro proprio con dei massaggi specifici che come una sorta di stretching aiutano la muscolatura del piede a ritrovare sollievo. Professore. Allora, questo è un consiglio che vale oro che lei sta dando ai suoi ascoltatori, perché teniamo conto che il piede è come paralizzato, immobilizzato, ingessato in queste calzature. Più sono eleganti e belle, più creano questo tipo di compressione amorsa. Il piede quindi non ha più la sua capacità, e anche in casa, voglio dire, su superfici piatte, in pantofole, cioè il piede nasce nudo, questo è il concetto fondamentale, e ha necessità di muoversi in tutti i sensi, di espandersi. Il fatto che noi lo costringiamo in calzature tutto il giorno fa sì che alla fine questo piede abbia la necessità di sopperire grazie a che cosa? Per esempio un bel massaggio dei piedi fatto bene con delle mani capacitive settimanalmente dà veramente un'energia incredibile ai piedi, alla circolazione, ma un po' a tutto il corpo, perché dal piede c'è un po' il benessere generale dell'organismo. Quindi è veramente importante che la gente impari a fare dei semplicissimi massaggi ai piedi, possibilmente non automassaggio, ma fatti proprio da qualcuno, perché così tutta la muscolatura del piede che ha a che fare con la gamba, certo, viene rilassata e si dedica a se stesso partendo dai piedi, insomma. Abbiamo in linea con noi Mauro da Milano e Francesco dalla provincia di Bari. Prima dei mercati riesco però a dare solo la linea a Mauro, Francesco e Paola che si è aggiunta. 800 24 00 24, li sentiamo dopo. Mauro, buongiorno. Buongiorno a voi. Buongiorno. Che scarpe porta? Io, ecco, appunto, porto queste scarpe innovative di cui non faccio il nome, di una nota fabbrica svizzera, che hanno la suola convessa. Allora io mi chiedo, sono veramente così innovative o è tutto un... Senta, ma innovative, ma lei si trova bene o no? Io mi trovo benissimo. Devo dire, si trova benissimo. Con mio figlio che lo porto sulle spalle faccio molta meno fatica di quando sono con delle scarpe tradizionali, diciamo. Piacciono così al dottor Benvenuti e piacciono al professor Avagnina. Dottor Benvenuti, so esattamente di cosa sta parlando, sì? Il nostro ascoltatore, sono scarpe utili quando, in quanto riducano l'appoggio del piede a terra, avendo questa superficie convessa, quindi uno non appoggia totalmente il piede per terra ma lo fraziona nelle varie fasi del cammino e quindi scaricano le zone. Professore? Promosse, rimandate, bocciate prima dei mercati? Sì, perché non ce ne esiste nulla al mondo. Cioè, ovviamente quando uno vuole vendere parla solo dei lati positivi delle sue cose, no? Queste scarpe hanno delle indicazioni precise in certi casi e delle indicazioni negativissime in altre, per cui se una persona le prende così come sperimentazione poi verifica da solo i risultati che ha su se stesso, altrimenti dovrebbe prima capire come funziona il suo piede, perché e poi sono scegliere. Molte persone che portano queste scarpe e aumentano i loro problemi di instabilità, perché teniamo conto che più noi vogliamo togliere al piede, all'organismo, le sue capacità funzionali, più ne paghiamo nel tempo conseguenze. Le conseguenze. A proposito di conseguenze, se il vostro piede si è trasformato, notate che si sta formando la fastidiosa cipolla, ma soprattutto se il vostro piede diventa dolente, se avvertite soprattutto lungo la pianta dei piedi un dolore nell'appoggio quando al mattino vi svegliate o dopo aver fatto sport, restate con noi. Gli orchi sono come le cipolle. Puzzano? Sì. No. Ah, ti fanno piangere? No. Ah, li lasci al sole, diventano marroni e poi spuntano i peletti bianchi? No. Strati. Le cipolle hanno gli strati, gli orchi hanno gli strati, le cipolle hanno gli strati. Capito? Tutti e due abbiamo gli strati. Ah, tutti e due avete gli strati. Sai, non a tutti piacciono le cipolle. Spesso se queste cipolle spuntano un po' arrossate alla base del nostro alluce. Professora Vagnina, l'alluce valgo è un problema spiccatamente femminile? L'alluce valgo è un problema bipartisan, sia uomini che donne ne possono soffrire. Ovviamente la prevalenza è nettamente a favore delle donne per il discorso delle calzature già ampiamente visto prima. Ci sono degli esercizi, professore, che noi possiamo fare. Abbiamo suggerito l'automassaggio, oltre che naturalmente il massaggio fatto da un professionista competente. Possiamo dedicare qualche minuto ai nostri piedi, soprattutto per noi donne che portiamo i tacchi alla sera, in qualche modo per prevenire l'alluce valgo? Sì, l'alluce valgo è una patologia che va vista in multidisciplinarità, quindi gli ortopedici hanno la loro parte chirurgica molto importante. Prima di arrivare a questo, come dicevamo, che cosa possiamo fare? Beh, la prima cosa, oltre al discorso di cambiare il proprio modo di stare in piedi con delle terapie ortesiche plantari fatte su misure, fatte bene, non comprate così in televisione come si usa fare o in un negozio. Sì. L'altra cosa importante è la riabilitazione, che riabilitazione non vuol dire solo fare quando qualcosa fa male degli esercizi, ma anche prima, come diceva giustamente lei. Quindi la cosa più semplice da fare è quella di prendere, ad esempio, ci sono degli elastici lunghi che si usano in fisioterapia, che possono servire a raddrizzare, a cercare di compensare quello che è avvenuto all'interno della scarpa nell'alluce attraverso una ginnastichina. Uno prende un elastichino, se lo lega, sì, ai due alluci, divarica i piedi verso l'esterno, sì, e questo aiuta almeno i legamenti, non tanto la muscolatura, a ridistendersi, che sono tutti orientati. Teniamo conto, Nicoletta, che ogni pezzo del nostro piede è fatto da piccolissimi muscoli, ce ne sono veramente tanti, ossa, articolazioni e muscoli, ma ogni muscolo ne corrisponde uno che fa una cosa opposta. Finché esiste questo equilibrio muscolare nei nostri piedi, tutto funziona bene. Quando uno comincia a tirare di più, si accorcia, va in squilibrio tutto il sistema. E poi, allora lì gli esercizi di cui parlavamo sono fondamentali per prevenire. Quindi ricordate l'elastico. Francesco dalla provincia di Bari, l'abbiamo fatto aspettare, ma eccoci qua per lei. Buongiorno. Sì, grazie, buongiorno. Volevo fare una domanda al professore. Sì. Ho operato mio figlio di 14 anni, circa 2 anni fa, di piattismo, sì, con metodo Giannini. Adesso noto che mentre cammina appoggia parecchio esternamente, mentre prima era anteriormente. Ogni sera mi chiede un massaggio a piede e in più volevo sapere se devo fare l'altro piede, visto i risultati, se è normale. Allora, Francesco, lei ci permette di parlare dell'operazione che molti bambini, che viene consigliata a molti bambini per risolvere il piattismo. Sì, dottore. Queste sono operazioni che vanno riservate ai bambini in età puberale, quindi diciamo dai 10 ai 13, 14 anni. Chiaramente esiste un'età biologica, ci sono dei bambini che a 14 anni hanno barba e baffi e dei bambini che a 14 anni sono ancora molto molto piccoli. Sono operazioni che servono a trattare appunto questi chiamiamoli piattismi dei piedi, e sono veramente operazioni correttive, quindi con piccole incisioni, con un piccolo gesto chirurgico si riesce a ottenere delle buone correzioni che poi vengono mantenute anche per l'età adulta. Paola da Roma, buongiorno, e poi Viviana da Milano. Paola, benvenuta. Buongiorno. Buongiorno. Una domanda per mettere un po' proprio agio ai piedi nei momenti, sì, in cui di relax in casa, per esempio. Molti hanno l'abitudine di camminare scalzi proprio completamente a piede nudo. Sì. Ecco, allora mi chiedevo, a parte il problema della sicurezza e degli spigoli, no? È corretto ovvero è possibile, insomma, portare anche un po' di tacco comunque per sostenere il peso anche in situazione di relax, appunto. E poi pantofoli, Paola, lei ci sta spingendo a dire di preferire le pantofoline con il tacco, quelle che si vedevano nei film anni 50 con un po' di frufru, oppure sì, appunto, a parte le calzature a dondolo, che mi hanno provocato un forte dolore alle ginocchia, perché squilibra naturalmente il piede e comunque dà maggiore lavoro al ginocchio. Il discorso delle alcune calzature che hanno il tallone più in basso di quello che sarebbe la posizione del piede a piede nudo. Quindi con la punta in su. Leggermente. Professora Vagnina, allora, pantofole o piedi nudi? Io opto assolutamente per i piedi nudi. Io sto sempre a piedi nudi a casa. Nicoletta, io quando ero all'università promuovevo agli esami tutti coloro che dicevano dipende, perché le risposte assolute sono sempre difficili da dire e possono anche essere fuorvianti. Come le ho detto prima, il piede nudo è sicuramente un elemento positivo nella nostra vita per vari fattori. Sì. Tenga conto che il piede nudo vero era il piede nudo nella savana, era il piede nudo nelle campagne, nelle montagne, non un piede nudo su una piattaforma piatta, fredda e liscia, dove gli stimoli sono pari a zero, voglio dire. Detto questo, l'altro fattore da considerare è che sono favorevole al piede nudo, ma ogni persona, per esempio il portare un tacco, porta piano piano negli anni a una ritrazione del tendine d'Achille, perché non ha più necessità di essere così lungo avendo un tacco che lo accorcia. Sì. Questo è un pro e un contro, perché se io continuo ad aumentare questo si accorcerà sempre di più, tant'è che ci sono delle persone anziane che io ho visitato che se tu gli togli le scarpe e non si mettono in avanti cadono addirittura indietro, talmente l'hanno accorciato negli anni con l'uso di queste scarpe. Quindi alternare un piede piatto, un piede scalzo piatto a un piatto nel senso di nudo, voglio dire, a un po' di tacco è sempre la cosa migliore, perché permette alle nostre strutture di avere una variabilità che non diventa mai fissa, né troppo lungo, né troppo corto, né troppo morto, né troppo attivo, insomma. C'è poi la domanda relativa alle scarpe che hanno il tallone un pochino più giù rispetto alla punta, professore? Anche lì dipende? Dipende sì, dalla... anche lì dipende, però è sicuramente positivo, perché va talmente contro quello che sono il 99% delle nostre abitudini, che sono o piatte o con tacco, che, come dicevo, nell'ottica di dare all'organismo più informazioni diversificate, quindi un riequilibrio generale posturale, io le vedo bene, sempre usate con l'intelligenza. Ma certo. A proposito, io voglio ricordarvi il quizzettone di oggi. Che cosa lega il grande pittore rinascimentale Lorenzo Lotto a un bel paio di piedi nudi? 800 24 00 24. Dobbiamo andare a sentire che cosa sta succedendo sulle strade e sulle autostrade, poi ritorniamo subito dopo insieme per cercare di darvi delle indicazioni per evitare quella, i medici la chiamano fascite, in particolare, dottor Benvenuti, di che dolore parliamo? Parliamo di un dolore che compare? Parliamo di un dolore che solitamente è calcaneare, sì. Compare soprattutto al mattino ai primi passi e alla sera quando uno è abbastanza stanco, ha camminato molto, eccetera. E quindi ha un dolore democratico che può colpire sia i sedentari sia gli sportivi. Professora Vagnina, io so che lei deve scappare. Scappa sul più bello, sulla fascite? C'è da dire qualcosa, certo, sui plantari che sono fondamentali e la rieducazione fisioterapica, perché... dopo che il dottor Benvenuti ha detto le sue importanti, si può dire qualche cosa su questo argomento o prima, insomma. Professor... Io posso aspettare ormai ancora 5 minuti. Professore, ma introduciamo subito il tema. La fascite mette a KO molti sportivi che devono proprio fermarsi perché l'appoggio diventa molto doloroso e poi il dolore che noi avvertiamo ai piedi non si sa come, ma batte sulla testa. Professore. Sì. La fascite plantare in effetti è un problema che molti sportivi hanno, ma deriva che cosa? Da un mal funzionamento di un sistema muscolare che è quello plantare e achilleo, cioè gamba e piede sono un tutt'uno in questo senso. Quando c'è un sistema molto rigido oppure c'è un piede che iperprona o ipersupina, questa fascia non lavora più con la giusta elasticità e con la giusta direzione e va in crisi. Come si può risolvere? Con una buona riabilitazione fisioterapica e con un plantare fatto su misura di tipo biomeccanico per lo sport, non un plantare, ripeto, di quelli che si vedono in giro, che sono in genere fatti su podoscopio, statici, nessuna funzionalità dinamica. Professore, grazie per essere stato con noi. Le anticipo che il suo esercizio con gli elastici, che metteremo naturalmente sulla pagina di Essere Benessere, è piaciuta molto ai nostri ascoltatori e quindi pensi a noi perché lo faremo sicuramente. Grazie professore. Io ringrazio lei e il dottor Benvenuti della partecipazione. Grazie davvero. Grazie al professor Avagnina. Dottor Benvenuti, talvolta la prevenzione non basta e si deve ricorrere alla chirurgia, ma adesso la chirurgia del piede è sempre più soft. Sto parlando di alluce valgo, sì. Sì, la terapia dell'alluce valgo chirurgica ha riconosciuto negli anni decine di trattamenti chirurgici, però si dividono esattamente in due grandi categorie. Sì. Diciamo la chirurgia a cielo aperto e ultimamente la chirurgia mini-invasiva, quella dei tre buchini, dei sì. piccoli tagliettini. Diciamo che tutte le chirurgie vanno adattate al paziente, certo. Non è possibile pensare di operare tutti alla stessa maniera. Diciamo però che questa nuova chirurgia mini-invasiva con i piccoli tagliettini che adesso va di gran moda nei media, eccetera, dà degli ottimi risultati e quindi per molti versi ha sostituito la vecchia chirurgia. Una volta operato l'alluce valgo si risolve, non torna più o è necessario mettere poi dei plantari ad hoc? Dipende dal problema biomeccanico che ha portato alla formazione dell'alluce valgo, perché io operando l'alluce valgo risolvo il problema dell'alluce della classica cipolla, non risolvo il problema biomeccanico che è a monte dell'alluce valgo. Quindi se c'è un problema biomeccanico veramente importante e il paziente operato è molto giovane, la possibilità di recidiva, se non adotto altre strategie, c'è. Quindi non è sufficiente solo operare l'alluce valgo. Allora, il nostro collega Marco Carminati è arrivato in studio perché è lui l'ideatore del nostro quizzettone. Che cosa lega il grande pittore rinascimentale Lorenzo Lotto a un bel paio di piedi nudi? Ma abbiamo Giuseppe dalla provincia di Milano che mi segnalano dalla regia ha pronta una risposta. Vediamo. Giuseppe, buongiorno. Sì, buongiorno. Ma io ho pensato una tela che è presso la Santa Casa di Loreto, che si chiama Presentazione al Tempio, che è una tela del 1550 circa, e in cui l'altare poggia su piedi umani. Vedo Marco Giuseppe, Carminati che... Complimenti, perché è un dettaglio naturalmente di un quadro non famosissimo... E quindi proprio lei ha indovinato, si tratta proprio di questo singolarissimo dettaglio, un altare che ha una tovaglia e invece di poggiare su dei piedi leonini o qualcosa del genere, poggia su dei piedi umani tra l'altro nudi. È un dettaglio che ha interrogato gli storici dell'arte, non credo sia ancora stato compreso esattamente il significato. Va detto che Lorenzo Lotto era un personaggio particolarmente bizzarro e capace di inventare immagini strane. Lui si vantava, tra l'altro, e si lamentava che i suoi committenti non capissero questa sua capacità. Per esempio, se andiamo a Bergamo, nel coro di Santa Maria Maggiore, ci sono le famose tarsie disegnate da Lorenzo Lotto. Ecco, lì è un tripudio di immagini strane, fuori dall'ordinario, che lui non prende dalla tradizione classica, dalla tradizione medievale, ma si inventa da solo per esprimere concetti spesso molto complicati. E da lì deve venire anche questa singolarissima idea che appunto nel tempio, dove c'è la presentazione al tempio, ci sia un altare dove sporgono dei piedi umani nudi. Una cosa stranissima. Allora, grazie a Marco Carminati che quando fai delle incursioni qua a Essere Benessere ci apri sempre, no, dei nuovi scenari. Sì, stavolta con i piedi, ma va bene lo stesso. Ma noi ce li teniamo da conto perché i piedi sono fondamentali, certo, per il nostro benessere e poi soprattutto ci permettono di camminare. Quanti passi al giorno bisogna fare per stare bene? Questa è un'altra domanda. In chiusura potete chiamare all'800 24 00 24. Il dottor Cricelli non ci darà la risposta. Dottor Cricelli, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a voi e agli ascoltatori. Ma ci parlerà di un'iniziativa, intanto conferma che bisogna fare un determinato numero di passi al giorno per stare bene, per la salute, ma anche per risparmiare soldi. Beh sì, noi abbiamo perso l'abitudine di utilizzare il cammino come strumento primario di movimento, l'abbiamo sostituito con automobili, tram, treni eccetera, invece soprattutto sulle brevi distanze camminare fa bene alla salute e fa bene anche al portafoglio, poi fa bene anche all'ambiente, perché l'aumento dell'uso dei passi, dei piedi, per recarci al lavoro, per esempio, per andare nei centri storici delle nostre città, per effettuare brevi o medi trasferimenti per acquisti, lavoro, eccetera, è veramente una delle cose che si è dimostrata maggiormente utile a mantenere la nostra salute. Dottore, quindi noi vogliamo ricordare ai nostri ascoltatori che parte un progetto molto bello che si chiama proprio Città per Camminare, il primo progetto italiano che coinvolge per ora 32 località in tutta la penisola, con decine e decine di percorsi di diversa difficoltà. Sì, il punto di partenza è che abbiamo a disposizione uno straordinario strumento, anche piacevole, perché sì. Camminare annoiandosi magari non è attraente, ma camminare in città? Nei centri storici delle nostre città, che sono bellissime, che sono ricche d'arte, ricche di cultura, ricche anche di attività commerciali, conviene. È un modo veramente. Dottor anche Cricelli, molto perfetto. Io la ringrazio. Città per Camminare, trovate le indicazioni sul sito e anche sulla pagina. Dottor Benvenuti, Marco Carminati, grazie. Su Facebook metteremo l'ascoltatore che ha indovinato il numero di passi ideale da fare quotidianamente. Grazie, buona giornata, lunedì.